seduti come bersagli, seduti come niente, seduti in attesa, non prevedendo niente. Che cosa sto cercando di fare? Che cosa sto cercando? Cercando di dirti niente che non sapevi già, quando ti sei svegliato oggi, seduti come un bersaglio, seduti in preghiera, Dio non sta dicendo niente. Le prospettive, ho imparato a non aspettare niente, seduti come un bersaglio, seduti qui in attesa, non sto cercando di dirti niente che non sapevi già. Quando ti sei svegliato oggi, seduti come bersagli, seduti in preghiera, Dio non sta dicendo niente di niente, sempre conosce le prospettive, ha imparato a non aspettare niente. Aspettare niente di niente.